della storia, una visione narrativa, che ti tengono insomma fino alla fine attaccata a questa storia, che poi anche toni favolistici. Quindi è una commedia umoristica, ma che ha toni drammatici e d'altra parte anche toni favolistici, e li alterna. Paolo, che uscita sarà? Dunque, il film, ricordiamo che ha vinto il Festival di Montreal, è il festival competitivo canadese, perché in Canada prima di Venezia c'è il festival competitivo che è Montreal e dopo Venezia c'è il Festival del Mercato che è Toronto. E poi ha vinto a Lecce tantissimi premi e è stato campione al box office in Serbia e Croazia. Questo perché? Perché è un film anche molto per il pubblico, è l'uscita del 5 aprile, sarà un po' in tutta Italia come al solito, ma naturalmente partiamo da un numero di copie da distribuzione indipendente, quindi siamo tra 10 e 15 città, ma poi, come sempre, contiamo di arrivare a tantissime altre città nel giro di qualche settimana. Naturalmente partiamo con le classiche Roma, Milano, Torino, Padova, Firenze, Bologna, queste città qui, e poi contiamo di arrivare anche in città, Perugia naturalmente, contiamo di arrivare anche in altre città, in piccoli paesi, in rassegne, poi le arene estive, come al solito. Il nostro percorso è lungo e cerchiamo di arrivare il più possibile vicino al pubblico, augurandoci che il pubblico si avvicini anche, faccia un passo anche per avvicinarsi a questa storia molto molto interessante e molto europea. In chiusura, Paolo, ci lasci i riferimenti web per saperne di più? Certo, cineclubinternazionale.eu, l'ho letto come si scrive, questo è il sito, e poi c'è la pagina Facebook, il sito anche di Secondi Istituti, e troverete tutti i riferimenti per il film, e gli aggiornamenti naturalmente. Benissimo. Questo per quanto riguarda The Constitution, due insolite storie d'amore di Raiko Gerlich, in uscita in sala il prossimo 5 aprile. Paolo Minuto, un abbraccio, a risentirci presto. A risentirci presto, grazie a tutti voi, buon lavoro. Siamo con Alessandro Tiberio di Valmin, che curerà la distribuzione di Marx di Raoul Peck dal 5 aprile al cinema, il giovane Karl Marx. Alessandro, ben ritrovato. Grazie Federico, ben ritrovato a te. Per chi ci ascolta, chiaramente diamo qualche indicazione di trama. Sì, certo. Innanzitutto la distribuzione è insieme a Wanted Cinema, con cui ci siamo sentiti insomma per altri film tante volte. Sì. Il film è il racconto della giovinetta di Karl Marx, dall'età di 26 anni fino a circa i 30 anni, e in particolare la sua amicizia con Friedrich Engels. Quindi abbiamo questo film che racconta la nascita innanzitutto di un rapporto umano molto particolare tra due menti affini in un momento storico molto molto molto sull'orlo di una crisi, insomma un'Europa che, avviando la rivoluzione industriale, chiaramente si trova all'orlo di un cambiamento profondo, e questi due amici che si ritrovano come spiriti affini insieme cercano di dare forma a tutta una serie di istanze che nascono chiaramente dal mondo del lavoro, dai movimenti dei lavoratori dell'epoca, che già esistevano ma in modo molto disorganizzato, frammentario, con degli obiettivi vaghi, che loro appunto riescono a mettere insieme e a dare forma appunto a un movimento unico e potente che poi cambierà le sorti di come concepiamo il lavoro e la società fino ai tempi nostri. E il film culmina appunto con la scrittura del Manifesto del Partito Comunista, che sappiamo essere probabilmente il testo più letto della storia. La regia di quel Raoul Peck che abbiamo conosciuto e apprezzato anche di recente. Sì, Raoul Peck è un regista noto soprattutto per la sua attività documentaristica. L'anno scorso abbiamo distribuito il suo documentario I'm Not Your Negro, che è stato candidato agli Oscar e ha di recente invece vinto sia ai BAFTA che ai César. È un

che a 14 anni il suo padre, pescatore a Gaza, è stato, gli hanno sparato la marina militare israeliana, e lui era così gravemente ferito che non poteva più continuare a andare a mare, e immobilizzato, e quindi Madeleine ha accettato di prendere in mano la nave, la barca per andare a pescare, quindi è l'unica pescatrice a Gaza, e questo chiaramente ha cambiato radicalmente tutta la sua vita, perché affermarsi tra gli altri pescatori, che è certo era anche una certa sfida ai costumi, alle tradizioni della comunità, ma lei con la sua tenacia, con la sua amore per il mare, con la sua capacità di essere assolutamente all'altezza dei tanti pescatori colleghi maschi, lei si è conquistato il rispetto e l'affetto di tutta la comunità a Gaza. E questo broken dreams, cioè i sogni scassati o fratturati, sono tutto quello che lei si immaginava che la sua vita fosse. Ha preso una vega completamente diversa, però lei è diventato un simbolo di quello che chiamano sumud, cioè di resilienza, sì, di una resistenza umana e civile soprattutto. E questo oggi, questi giorni, che a Gaza è un massacro continuo, certo, è anche un omaggio alla popolazione, in particolare alle donne di Gaza. Sì, sì. Questo è il primo film, che è un'ora, e poi c'è un altro film che si chiama Bloody Basil, cioè Basilico di Sangue, di un regista che anche lui è già stato anni fa, l'anno scorso, all'Art, con un film che si chiamava Bitter Ink, cioè l'inchiostro amaro, sulla letteratura nata in prigione, nelle prigioni. Cioè Bloody Basil, e lui si chiama Elia Gorbia, e lavora anche per alcuni canali televisivi, per Jazeera English e per Palestine TV, cioè la TV locale. E questo è un documentario molto molto forte, breve, di un quarto d'ora, ma che racconta la vita da schiave praticamente delle donne palestinesi, che ex contadine, ma insomma, come le terre dei contadini vengono sempre di più confiscate, non hanno più base di sussistenza, e quindi sono costretti di andare come lavoratrici nei insediamenti, cioè nelle piantagioni dei insediamenti, partendo alle 3 di notte da casa, con 3 ore di viaggio di andata, 10 ore di lavoro, con abusi intollerabili, con umiliazioni, un sistema praticamente di schiavitù moderna per pochi per pochi soldi, poi 3 ore di ritorno, alcune poche ore di sonno, quasi nessun tempo di occuparsi dei figli, e così, questo 6, a volte anche 7 giorni la settimana. È un film anche sul caporalato, e quindi è anche attuale, oltre alla situazione delle donne palestinesi, e anche un accenno a un metodo di lavoro praticamente di schiavitù moderna. Moderna, cioè schiavitù di oggi, come succede anche nel nostro sud, non a quei livelli forse, però è un appello a applicare le leggi internazionalmente riconosciuti di salvaguardare la dignità delle persone anche nel lavoro, e quindi è un film manifesto, sì. È molto molto ben fatto anche, sì. E questo sono i due film che questa volta facciamo vedere. Poi che abbiamo scelto appunto, sì. Non solo perché premiati a Elard, ma anche perché sono dei film tutti e due molto validi. Senti Monica, allora ricordiamo gli orari e il luogo? È alle ore 18, cioè alle 6 di sera, giovedì 5, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio, che è alla centrale Monte Martini, via Ostiense 106, perfetto. Metro Garbatella. Perfetto. Quindi ci sarà la proiezione di questi due film vincitori della Lard Doc Festival 2018. Ecco. Monica, io ti ringrazio, un abbraccio, ci sentiamo per le prossime novità. Io ti ringrazio. Ciao e buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao. Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa, con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.